1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Eccoci qui, le 7:18 minuti, cari ascoltatori. Leggo subito un messaggio che mi è arrivato al 349-238-6666. Straordinario. Andrea ci scrive: un anno fa ti ascoltavo dal Sudafrica, quest'anno dal Qatar e l'anno prossimo forse dall'Iran. Beh, ma Andrea, ti arrivi un abbraccio in diretta streaming, evidentemente, da tutta 24 mattino, da tutta Radio 24. Dai, grande Andrea. Allora, noi avremo ospite con Oscar Giannino Luca Zaia, presidente del Veneto, per capire regioni, Stato, e anche Emanuele Fittipaldi, giornalista che ha scritto questo libro Avarizia, che esce proprio oggi e che le cui anticipazioni insieme al libro di Gianluigi Nuzzi sono finite sui giornali, ancora ci sono e hanno creato questi scandali sul Vaticano. E allora di questi temi parleremo, anche di tutto ciò che vorrete, più tardi, dalle 8:15. Intanto andiamo a leggere i giornali. In questo giovedì 5 novembre i titoli: Il Sole 24 Ore, la Fed verso il rialzo dei tassi, corsa al dollaro sui mercati, questo è il titolo di prima pagina, mentre la vicenda, l'assoluzione in primo grado per Calogero Mannino, patto Stato-mafia, la prima sentenza assolve Mannino, è il titolo del Corriere della Sera, così Repubblica, Stato-mafia, assolto Mannino. Il Vaticano ancora in prima pagina per il Messaggero, lettere e foto, ricatti in Vaticano, mentre Libero, le regge dei cardinali coi soldi dei poveri. E il Giornale, tutti gli attici dei cardinali, Vaticanopoli. Avvenire invece la mette così: benedette riforme, il Vaticano continua il processo di cambiamento. Per il Fatto Quotidiano, politica, l'ammucchiata, nasce il TCG, tutti contro Grillo, così a Roma per il Fatto. Mentre La Stampa apre con la notizia con cui vorrei aprire anch'io, e cioè, ormai sembra più di indiscrezione, la CIA è stata una bomba dell'ISIS. È la vicenda dell'esplosione sopra l'Egitto, sopra il Sina, e dell'aereo russo costato la vita a oltre 200 persone. Anche Londra ora sospende i voli da Sharm, i turisti bloccati. Anche la Farnesina invita tutti gli italiani, qualora fossero adesso soprattutto a Sharm el Sheikh, la località più turistica, a rimanere nei resort e non andare in giro. Insomma, il timore è che quello che è successo in Egitto sia stato un vero e proprio attentato. Forse una valigia bomba che ha comportato l'esplosione in volo dell'aereo russo. Cameron, premier britannico, ha detto sul jet russo forse una bomba, racconta Francesco Battistini sul Corriere della Sera, pagina 19. Un mercoledì più nero, il presidente egiziano al-Sisi non poteva aspettarselo. L'altro ieri aveva detto che l'aereo russo non è stato colpito da terroristi, perché il nord del Sinai è nel nostro pieno controllo. Ebbene, proprio ieri un kamikaze si è fatto saltare nel pieno centro di El Arish, nord Sinai, uccidendo 3 poliziotti. E ancora, al-Sisi ieri era in visita a Londra e alla BBC aveva appena ripetuto che fa solo propaganda chi parla di un attentato. E come è uscito con l'incontro di Downing Street? Il premier britannico Cameron ha convocato il comitato d'urgenza e ha detto: nuove informazioni sono venute alla luce, potrebbe essere stata una bomba. In Egitto ovviamente una diffusione di una notizia del genere abbatterebbe il turismo a livello zero, ma in un'ora di verità bisogna capire davvero che cosa sia successo a bordo di questo aereo. Ora rischiano anche i civili e l'America lancia l'allarme, è il titolo della Stampa, pagina 3. Paolo Mastrolilli racconta da New York come sia arrivato ormai l'invito da parte delle autorità americane a stare attenti. Washington è preoccupata, anche la CIA dice c'è l'ISIS e una bomba dietro questo, forse un ordigno messo in una valigia fatta imbarcare all'ultimo momento. Sta di fatto che Londra e Dublino bloccano i voli per Sharm el Sheikh e la situazione davvero giorno dopo giorno rischia di diventare molto molto più complicata di quanto già non lo sia. in quella vicenda, in quella zona del mondo. Venendo alle cose italiane, anche se il Vaticano non è Italia, ma sappiamo che in realtà ci siamo dentro con tutti e due i piedi. E allora le notizie sul Vaticano sono ancora numerose. Vi segnalo l'articolo di Fiorenza Sarzanini a pagina 5 del Corriere della Sera, tangenti anche per le beatificazioni. È un'inchiesta, quella sui corvi in Vaticano, che potrebbe arricchirsi di nuovi clamorosi elementi perché si intreccia con un'altra inchiesta, questa volta in Italia, alla Procura di Terni. È un'inchiesta che coinvolge l'esperta di pubbliche relazioni Francesca Immacolata Sciauchi e suo marito Corrado Lanino. Sapete che la Sciauchi già è stata coinvolta anche in Vaticano. Reati ipotizzati a Terni nei loro confronti sono estorsione e intrusione informatica in un quadro di pressione e ricatti simili a quello che ha fatto finire in arresto Monsignor Balda e la stessa Sciauchi in Vaticano. Ricordiamo e ricorda Fiorenza Sarzanini che il marito della Sciauchi è un esperto informatico, fino a qualche tempo fa webmaster del circuito informatico di terzo livello della Santa Sede, poi trasferito nella clinica Santa Lucia con lo stesso incarico. L'ipotesi della Procura di Terni è intrusione informatica, che abbiano trafugato qualcosa. E va bene, continuano le spese sulla stampa, sono stralci dei libri di Emanuele Fittipaldi, con cui parleremo, e di Gianluigi Nuzzi. Si scopre che il cardinale George Pell, australiano, detto il Ranger, in 6 mesi, da luglio 2014 a gennaio 2015, ha speso 501.000 euro. Viaggia sempre in business class. Roma-Londra, 1.103 euro di biglietto. Roma-Monaco di Baviera, 1.238 euro. Roma-Dresda, 1.150 euro. E poi ancora Roma-Londra, 1.293 euro. E poi l'ormai celebre sotto lavello da 4.600 euro, ma anche 7.200 di tappezzeria, 47.000 per mobili armadi, lavoretti vari, altri 33.000 euro. Un totale, sommando tutto, di 500.000 euro di spese in 6 mesi. Ma parla, è forse la persona sempre più citata, sempre più guardata con sospetto, il cardinal Bertone, perché l'accusa è quella di essersi rifatto lattico con in parte i soldi dell'ospedale Bambin Gesù e quindi dei bambini malati. Viene intervistato da Gian Guido Vecchi a pagina 8 del Corriere della Sera. Si difende così Bertone: è una vergogna, non so come difendermi dalle calunnie, è impossibile difendersi. E allora dai, ci spieghi che è successo. L'appartamento che mi è stato assegnato d'accordo con Papa Francesco, ecco, da questa stoccatina Bertone, i lavori furono affidati alla ditta Castelli, il cui amministratore delegato Antonio Bandera, totale 300.000 euro, ho pagato coi miei risparmi. Il che ti fa capire quanto si risparmia a fare il cardinale. 300.000 euro pagati coi miei risparmi, dice il cardinal Bertone. Sì, ma la Fondazione Bambin Gesù ha pagato 200.000 euro. Sentite la risposta di Bertone. Così dicono. Solo dopo ho saputo che erano state presentate fatture alla Fondazione. Ed eccolo qui. Aggiornare alla lista le fatture alla Fondazione a mia insaputa. Versione Vaticana. Solo dopo ho saputo. Così il cardinal Bertone, che poi ci illumina anche sulla grandezza effettiva del famoso attico dato da 700 metri quadri. No, l'appartamento è 296 metri quadri e abito con una comunità di 3 suore che mi aiutano. C'è anche una segretaria che il Santo Padre mi ha concesso per scrivere la memoria di 3 papi. C'è la biblioteca, l'archivio, le camere per tutti. E poi il terrazzo. Ma questa storia del terrazzo e l'attico con vista su San Pietro, non esiste nessun attico, dice Bertone. Abito al 3° piano e il terrazzo non è mio. È stato risanato durante i lavori, ma è quello condominiale in cima al palazzo. Insomma, erano 2 appartamenti distrutti, ho pagato io per la casa. Sono tutte calunnie. Così il cardinal Bertone, che finalmente chiarisce la grandezza anche dell'appartamento dell'attico. 296 metri quadri, dici lui, altro che 700. Vabbè, dai, siamo all'articolo che mi fa più pensare della giornata, perché io non ne posso più. Questa storia di Messina, basta. Abitanti di Messina, ma perché non vi siete ancora ribellati? Cioè, io vi invito, ma civilmente, a una ribellione. Questa storia dell'acqua, ora razionata per 250.000 persone. Ma dove siete? Cioè, dove in che paese vi costringono a vivere? Messina secco, arriva la nave cisterna, il governo dice cambiamo le aziende, sì certo si interviene, ma gli acquedotti sono colabrodo, il giorno insomma racconta dell'acqua razionata per 250.000 persone. Ma in che paese siamo? In che paese siete, abitanti di Messina? Ribellatevi! Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna! Allegria, c'è il Milan, come dice Mario Bianchi, eh? Ah, il Milan non è la grande Milan, ma è quello della Radio 24, quel menagramo, via via, altro che mani sul volante, quello lì racconta delle robe da fuoco, ciao ciao. Vabbè, vabbè, abbraccio sì anche Matteo che mi scrive, ma io abbraccio idealmente tutti gli ascoltatori, dice Matteo mi scrive, a me non mi abbracci che ti ascolto tutte le mattine dalla Pontina. Beh, questi sono i nostri eroi moderni, caro Matteo, fai come me, svegliati alle 5 così non trovi traffico quando vai in giro. È il bello della sveglia alle 5, una delle pochissime cose, caro Matteo, comunque un abbraccio a te come a tutti gli ascoltatori. Allora, come detto, noi parleremo con Luca Zaia, governatore del Veneto. Devo dire che si è un po' ricomposta la frattura, almeno così apparentemente, dopo il primo incontro tra Renzi e i presidenti delle regioni di centrosinistra. Sapete che sono quasi tutti di centrosinistra ormai le regioni. C'è invece chi, i leghisti come Maroni e Zaia e anche il rappresentante di centrodestra di Forza Italia, Toti, della Liguria, che tengono duro in questo fronte contro Renzi. Si spacca il fronte delle regioni, questo è il titolo di pagina 10 del Corriere. C'è un'intervista a Maroni che dice Renzi ci ha preso in giro, aveva garantito che nella legge di stabilità avrebbe introdotto i costi standard, invece una volta di più rieccoci ai tagli lineari, quelli che castigano i virtuosi. Propongo che Chiamparino, che ha confermato le dimissioni da presidente di tutte le regioni, ora propongo che la conferenza abbia come nuovo presidente o me, o Zaia, o Toti, e cita infatti i tre di centrodestra. Uno di noi potrebbe fare quello che né Chiamparino né chiunque altro potrebbe fare. Maroni dunque è critico, dice saremo costretti a tagliare noi presi in giro dal governo. Questa è l'intervista di Marco Cremonesi, vedremo se sulla stessa linea è Luca Zaia, anche lui della Lega. Sta di fatto però che si ricompone un po' la frattura sulla questione delle spese. Anche Deborah Serracchiani, che è vicepresidente del PD ma è anche presidente della regione Friuli Venezia Giulia, intervistata da Valentina Conte sul quotidiano Repubblica, dice i bilanci sono salvi, ora non aumenteremo i ticket e le tasse locali. Siamo entrati nelle criticità, è stata una riunione concreta e puntuale e dunque il fondo sanità aumenta di 1 miliardo e passa a 111 miliardi per il 2016, una novità importantissima. In concreto significa, riguardo ai tavoli tecnici, valuteremo di quanto se ne faranno carico le regioni in quanto andrà aggiunto al fondo nazionale. Diciamo che c'è un rientro della frattura. Però Chiamparino è l'osservato speciale, colui che si è dimesso di fatto da presidente delle regioni e rimane deluso, tanto che secondo Repubblica starebbe meditando di lasciare il Partito Democratico. Questo è raccontato a pagina 10 da Sara Strippoli. La frase più sibillina è proprio quella pronunciata a fine serata. La mia posizione nel partito, dice Chiamparino, rifletterò, ma aspetto l'approvazione della finanziaria. Tutti si aspettavano un incontro a muso duro con Renzi, il governatore e lo stesso presidente del Consiglio lo hanno evitato, ma rimane questo dubbio di Chiamparino, il governatore del Piemonte che ricuce sul fronte sanità ma conferma le dimissioni da presidente delle regioni. Si parla anche di una lite con la Serracchiani proprio all'interno della riunione lì a Palazzo Chigi e Chiamparino che potrebbe lasciare il Partito Democratico e dunque dato per deluso su Repubblica. A proposito di sanità, Vi segnalo l'articolo di Alessandro Barbera sulla Stampa, pagina 5, un'analisi puntuale dei costi e anche degli sprechi nella sanità. Sanità che, se si prende un indicatore, l'andamento della spesa in percentuale alla ricchezza prodotta dal paese, non si può sostenere, secondo questo metodo, che la sanità italiana sia fra le più costose, visto che la spesa pubblica e privata nel 2014 ha assorbito il 9,2% del PIL, appena un decimale in meno della media europea. Ci diceva prima Alberto Forchielli che la sanità in America è il 17% del PIL, quindi se in Italia è il 9,2%, a fronte di un risultato buono, perché la vita media italiana è anche più alta di quella degli Stati Uniti, evidentemente secondo questi parametri non è una grande spesa la spesa sanitaria italiana. Però su che cosa si spende? Sugli sprechi: negli uffici salgono del 40%, i convegni, gli esborsi per beni e servizi in rialzo dal 200 al 340%, soprattutto in regioni come Molise, Calabria, Campania e Lazio. Insomma, gli sprechi ci sono, anche se la sanità non ha, in rapporto al PIL, un costo altissimo in Italia rispetto alle altre nazioni, anzi. Vabbè, ma al di là di questo, oggi sui giornali troverete grande spazio dedicato a Corradino Mineo, che ha lanciato davvero una frecciata al curaro al premier Renzi, perché nel rompere un po' col partito Mineo ha detto questa frase: Renzi sa che io so e so quanto possa sentirsi subalterno a una donna bella e decisa. Questa frase di un detto e non detto è una frase che oggi viene rilanciata da tutti i giornali. Il Corriere della Sera: le frasi sessiste di Mineo diventano un caso, la sinistra PD chiede ora le scuse, Mineo non ritratta per nulla, viene intervistato da Luca De Carolis sul Fatto Quotidiano, figurati, subito i giornali ci vanno a sguazzare. E dice Mineo: a che cosa si riferisce Renzi subalterno a una donna che può costar caro a lui? Non entrerò su questo piano, non farò mai i nomi, mi hanno insegnato da bimbo che le conversazioni private devono restare tali, dice Mineo. Gli ho solo detto: so quanto sei debole, ti conosco bene. Giustamente, però, a questo punto, lanciato il sasso, il giornalista del Fatto dice: io devo chiederle a questo punto a quali conversazioni fa riferimento, senatore. Non glielo dirò, mi fermo qui. Ma è già scattato il toto nomi sulla donna che lei cita. A me non interessa, io dovevo dire, basta, non voglio mettermi sullo stesso piano di Renzi. Sì, ma questo è un avviso ai naviganti, è un avviso a lui, dice Mineo. Lo ripeto, a voler sempre asfaltare tutti si finisce con il danneggiare se stessi. Sì, ma lei fa capire che nei comportamenti al di fuori della scena politica Renzi ha dei limiti. Assolutamente. Ha limiti grossi, questo lo dico. Ma sono limiti che potrebbero pregiudicargli la carriera politica? Assolutamente sì, insiste Mineo. Renzi è bravissimo nel gioco politico, assolutamente incerto quando si tratta di altre cose. Ma lei parla della vita privata di Renzi. Su questo non mi strapperà una sillaba. Ma come fa a formulare queste riflessioni? Ha assistito a episodi? Ha appreso da racconti diretti? Si tratta di fatti riguardo ai quali ho un'idea molto precisa per presa visione. Cioè, Mineo lancia delle accuse terribili, pur senza andare fino in fondo. Matteo subalterno a una donna, figurarsi Libero, figurarsi il giornale, i giornali, come dire, già critici di Renzi, si scagliano così su questa notizia. Il Giorno addirittura mette un nome: l'ex Mineo sparge veleni sul leader, è un'allusione alla Boschi? Questo con un punto di domanda. Tutto il partito insorge, così è meschino e sessista Mineo con queste accuse. Sta di fatto che il sasso è davvero lanciato, ed è un sasso discretamente pesante nello stagno. Invece Io non dormo da tre notti a interrogarmi sul fatto se Berlusconi vada o no da Salvini in questa kermesse del centrodestra o di Salvini, ecco, perché questo è il punto. Berlusconi non vorrebbe evidentemente andare a una kermesse targata troppo Lega. Oggi Salvini lo invita con un'intervista a pagina 13 di Repubblica. Berlusconi sbaglia, dalla rossa Bologna parte la sfida a Renzi. Il leader leghista dice: a me risulta che Berlusconi verrà e parlerà anche dal palco, anche se c'è chi rema contro nel suo partito. Ma domani non si doveva vedere con lui? Sì, in agenda non ho nulla, dice Salvini, ma esiste anche il telefono comunque. E comunque, dice, sbaglia Berlusconi a non venire. Deve venire qui a Bologna, perché da qui si riparte con il centrodestra. Ma Berlusconi, racconta almeno Salvatore Dama sul Libero, è per nulla convinto. Anzi, il cavaliere bidona Salvini. Dice: se vado al corteo della Lega, oscuro tutti. E dunque lo faccio per aiutare Salvini. Questo avrebbe detto Berlusconi ai suoi, che quindi al momento il borsino del vado non vado recita, secondo Libero, più non vado da parte di Silvio Berlusconi. Oh, sono tre notti che non dormo, anche perché non ho capito dove è sparito quel debosciato di Mauro Meazza. Mauro, Mauro! Buongiorno Alessandro! Oh, come sei galvanizzato! Rinfrancato! Sto leggendo avidamente i giornali, sì, tra cui appunto più avidamente di tutti il Sole 24 Ore. Volevo che tu mi confortassi su una cosa: ma per caso è cambiata la capolista del campionato mentre io non c'ero? Perché non mi risulta. Il tuo imbarazzo, imbarazzo e non la tua loquela, come diceva il poeta, ti sei manifesto. Però noi siamo a tre vittorie di seguito, non so voi. Vedremo come andrà a finire. Intanto ti volevo dire che oggi sul Sole 24 Ore tutta questa attesa per le decisioni che potranno essere da parte della Fed, della Banca Centrale Americana, per i tassi, perché si attende che ci sia un intervento i primi di dicembre. E quindi come prepararsi, come leggere questo intervento, te lo spieghiamo ovviamente a pagina 3 del Sole 24 Ore. Invece ti volevo dire che sul patent box, che tu non sai cos'è, ma è una cosuccia importante, neanche io so bene cos'è, però su norme e tributi Giovanni Parente me lo spiega. È una forma di tassazione agevolata, un'agevolazione per gli investimenti in marchi, brevetti e beni immateriali. Ebbene, manca, guarda un po', il provvedimento. È una novità. Ma sono... pensavo che stesse cambiando qualcosa. Te lo dico preventivamente, io non ce l'ho. Non qua tra non le ce mie l'hai carte. Sei sicuro? Sì, hai guardato bene? Ho guardato bene. Vabbè, allora guarda, prova a controllare, perché manca il provvedimento, non si può usare per quest'anno. Ti spieghiamo perché sulle pagine di norme e tributi, mentre oggi, essendo giovedì. Sì, è giovedì. Tu hai perso un po'. Per te è lunedì, per te è come se fosse lunedì, primo giorno di lavoro. Come se fosse lunedì, e quindi ho appena saputo i risultati del campionato di calcio. Vabbè, comunque non voglio... No, comunque confermo, non è cambiata la capolista, è sempre il Piacenza. Noi purtroppo da Prosesto abbiamo perso le ultime partite, ma è sempre il Piacenza. Ma forse non parlavamo della stessa serie, comunque non importa. Volevo dirti, oggi essendo giovedì, allora se tu me lo confermi, c'è Casa 24, cioè le pagine dedicate alla casa sul Sole 24 Ore. Tra l'altro, con le informazioni necessarie per chi si può e si vuole tutelare in caso di acquisti di case in costruzione, che è un aspetto parecchio importante. Ci sarebbero molte altre cose. Tra l'altro, io essendo rientrato oggi, è come se fosse lunedì, ma ieri so che con il Sole 24 Ore abbiamo dato uno speciale dedicato al versamento degli acconti. Come no? Questo è il mese del versamento degli acconti. Caso mai tu te lo fossi perduto, puoi leggerlo religiosamente, ma anche elettronicamente, perché è come ebook oggi sul sito del Sole 24 Ore. Guarda, molte altre cose, ma devo recuperare anche un po' il tempo perduto. C'è il fiatone, effettivamente. Sì, guarda, non reggi più. Ho tantissime cose da leggere. Abbiamo abolito le province nel frattempo. Perché Non mi risulta. Ah, vabbè, allora su quello sto più tranquillo. Ti segnalo soltanto una interessante sentenza del Consiglio di Stato sulle sanzioni legittime per il tassista che allunga un po' troppo maliziosamente il percorso. Lo scriviamo dove? Su norme e tributi? Ma certamente lo scriviamo su norme e tributi. E allora con questa informazione potrebbe sempre essere stato che il tassista ha trovato, traffico! Alessandro Milan etichetta rossonera, il conduttore che crea un'atmosfera. E allora, saluto, ho creato un caso sulla puntina, saluto chi mi scrive, mi sveglio alle 5 come te, ma sulla puntina c'è traffico comunque, sempre, un abbraccio da tutti noi pendolari, un abbraccio anche a me, a tutti i pendolari, abbraccio anche la mia amica Chiara che mi scrive privatamente dicendo abbracci tutti e me no, un grande abbraccio anche a Chiara e va bene, e allora andiamo avanti così, io sono come quella santona che dà gli abbracci gratis e va bene a tutti. Allora, allora cari ascoltatori, c'è questa sentenza, sentenza di primo, un primo banco di prova sull'inchiesta Stato Mafia che è finita con una soluzione, perché è stato scagionato l'ex ministro della DC Calogero Mannino dall'accusa di aver avviato la trattativa tra pezzi delle istituzioni e pezzi di Cosa Nostra. Questa sentenza ha ampio risalto ovunque. Molti giornali la mettono a pagina 2 e 3, c'è anche un'intervista a Mannino. Viene intervistato da Repubblica, da Alessandra Ziniti, dice: io non so se esista la trattativa Stato-mafia, certo ho fortissimi dubbi e so però che sono stato perseguitato per 25 anni dall'ostinazione di magistrati, ora intervenga il Consiglio Superiore della Magistratura, così dice Mannino. Viene intervistato anche Mancino, Nicola Mancino, e lui al Corriere della Sera, intervistato da Giovanni Bianconi, ex vicepresidente del CSM, nonché ex ministro dell'Interno all'epoca delle stragi Falcone e Borsellino, dice: io alla sbarra da anni sono sotto la protezione della natura. Mi usano per alimentare il teorema, ma vanno lenti. Devo morire per uscirne? Chiede Nicola Mancino, anche lui lamenta una lentezza nel dibattimento. Insomma, per i cultori di questa materia c'è tanto materiale sui giornali. Veniamo alla cronaca. Mi ha colpito molto la notizia che proviene da Torino, dove 23 alunni sono stati sospesi per avere utilizzato WhatsApp in maniera, come dire, per il preside non molto ortodossa. Facevano foto, secondo i professori hanno preso in giro i professori con queste foto, poi se le facevano girare, facevano anche delle foto negli spogliatoi delle palestre. Il risultato non è tanto la sospensione, è che c'è una ribellione dei genitori. Cioè i genitori, l'abbiamo detto tante volte, non ci sono più i tempi in cui i genitori sono complici dei professori, come era ai tempi in cui andavo anch'io a scuola, per cui se il professore diceva una cosa, il genitore ti diceva ha fatto bene. Adesso invece c'è un conflitto totale. Se il professore dice una cosa, si è rotto il patto tra genitori e professori, non so come mai, non so quando sia successo, ma i genitori subito dicono: come si è permesso di trattare così mio figlio? E infatti, professori derisi sulla chat e i social network, 23 alunni sospesi, i genitori in rivolta. Così Repubblica, ma anche Il Giorno, La Stampa dedica 2 pagine a questo tema. Tra l'altro, un'analisi interessante: del 95% dei dodicenni ha uno smartphone. Questo ormai scrive La Stampa, quasi tutti. 95% di dodicenni ha lo smartphone e si racconta in rete. E a questo tema è dedicato anche il Buongiorno di Massimo Gramellini. In prima pagina della Stampa: durante le lezioni i ragazzini di una media nel torinese riprendono gli insegnanti col telefonino per poi metterli alla berlina. I prof si lamentano e 22 teleoperatori in erba finiscono sospesi. Molti genitori insorgono. Per sgridare la prole? Giammai! Deprecano la rigidità degli insegnanti, perché prendersela per una ragazzata che alla peggio finirà sotto gli occhi di qualche milione di persone. Dai! Così con questa soluzione Urbi e Torbi, soprattutto Orbi, dall'abuso di Instagram e Facebook, si restringe sempre più la sfera dei comportamenti scolastici attribuibili ai figli. Se tirano uno schiaffo al prof, la colpa è del prof, che non ha saputo incutere il dovuto rispetto. Se gli rubano il registro, la colpa è del prof, che lo ha lasciato in vista. Ma anche se gli mettono una mano di vernice sulla sedia e lui o lei ci spalma i pantaloni o la gonna, la colpa è del prof, che non ha controllato prima di sedersi. E se gli fratturano il malleolo con una mazza da baseball, che domande, la colpa è del prof, anzi della scuola intera che ha permesso a un oggetto contundente di circolare indisturbato per i corridoi. E se poi un angioletto di mamma e papà prende 2 in tutte le materie, la colpa è del prof che non ha saputo stimolare l'allievo. In realtà ci sarebbe una colpa che non si può dare ai figli, e tantomeno al prof, di avere dei genitori così. Questo è Massimo Gramellini, anche in diretta su Periscope. Da questo momento lo faccio vedere sulla prima della Stampa. Vabbè, siamo quasi in chiusura, non c'è tempo per la vicenda del calciatore del Real Madrid Benzema, che avrebbe ricattato un compagno di squadra chiedendogli 130.000 euro perché circolavano video sessuali del compagno di squadra con una prostituta. Cioè, ma siamo a sti livelli? Ma Benzema, ma guadagni milioni di euro, devi chiedere, forse, secondo questa l'accusa, 100.000 euro a un compagno ricattandolo? Ma io veramente mi chiedo, no, non mi chiedo nulla. Vabbè, la carta costa, mezza pagina del Fatto Quotidiano sulla biografia di Maria Elena Boschi, la Mari, tacco 12 e capelli scolpiti. La domanda di quest'articolo è: ma chi è davvero Maria Elena Boschi? Ma chi se ne frega!